Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. The Dread Pirate Roberts never takes prisoners. I can't afford to make exceptions. I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time. You mock my pain! Life is pain, Highness. Anyone who says differently is selling something. Comunque sì, sono italiano, transfuga all'estero per tristi motivi, presto riassunti. Di fatto sembra che nel nostro bel paese natio le parole ricerca scientifica destino, se non derisione e sospetto, quantomeno un senso di inutilità. Tirando le somme, tra concorsi truccati ed equilibri di potere di sapore politico anche nei centri di ricerca e nelle università, sono stato costretto, mio malgrado, a cedere alle tentazioni delle offerte dall'estero. E così, mentre da voi piove, chissà perché. C'era una volta un modo di dire che connetteva fenomeni atmosferici in virtù dei governanti. Mentre da voi piove, dicevamo, qui si soffre il caldo già da metà febbraio. Sai, come curiosità, ho scoperto Rock FM per caso, se non per errore. Mentre ricercavo delle informazioni sul web, Google ha pensato bene di inserire tra le pagine dei risultati un forum in cui si discuteva dell'assegnazione delle frequenze radio. Scorrendo le pagine mi sono balzate all'occhio le parole Rock FM in una pagina che sembrava, ed era, in italiano. Incuriosito, ho accantonato per qualche minuto la ricerca originaria e ho scoperto Rock FM. Purtroppo i miei orari perennemente incerti e sicuramente impossibili, unitamente a 7 ore di fuso orario, non mi permettono un ascolto in diretta, ma il podcasting mi salva. La domenica, il martedì e talvolta il giovedì, di sera, mentre ripercorro perturbazioni quantistiche, transizioni di fase ed emissioni relativistiche, posso godere della compagnia di musiche eclettiche che ben accompagnano le questioni che mi trovo ad affrontare. Il mio nome è Charo Ivan. Ah! Ho davvero apprezzato il tuo ironico commento che la sub pop talvolta produce ancora band di Seattle. Appena ho sentito, ho esclamato con un sorriso. Sono pienamente d'accordo, frase che mi è costata una veloce traduzione simultanea con annessa spiegazione per i presenti. Questa era Charo Ivan, che scriveva dal Texas. Yeah. Come in time. Vi ricordate la prima volta che vi trasmisi un estratto da questo disco? Sempre l'estratto in questione, quello con il contributo alla voce di Manuel Agnelli. I Knew Jeffrey Lee, il titolo del disco. Vi dissi che era un tributo da parte dei Circo Fantasma, assieme ad amici appunto come il già citato Manuel, altri tipo Cesare Basile, Amori Cambusai, Emilio Clementi, Mauro Ermanno Giovanardi. Era un disco di canzoni che volevano essere un tributo ad un super gruppo che nacque nel 1986, nacque e morì nel 1986, ma soprattutto a Jeffrey Lee Pierce, che di quel super gruppo faceva parte, dei Gun Club. Ora purtroppo gli eventi hanno fatto diventare questo disco un tributo anche a Nicky Sadden, che è mancato pochi giorni fa dopo 3 date sold out a New York City. Nicky Sadden degli Swell Maps faceva parte di quel supergruppo e fra l'altro aveva anche partecipato al disco New Jeffrey Lee, che esce per la Lane Records, chiamato dai Circo Fantasma, ed ora anche lui purtroppo se n'è andato. Il resto di Eclettica di questa settimana, la 27esima settimana di Eclettica, è stato costituito nella sua quarta parte da il primo brano Pink Mountain Tops. Non pensate che Pink Mountain Tops siano un gruppo, ma è un solista che usa come tanti un pseudonimo, Stephen McBean, e il suo nome prima aveva fondato un'altra band, in quel caso era una band vera dal nome Black Mountain. Qui si parla sempre di montagne, ma di cime rosa anziché di montagne nere. È un disco Jack Jaguar, era da tempo che non mettevo un disco Jack Jaguar, e sinceramente non è che la Jack Jaguar mi avesse mai abituato all'atmosfera che ci siamo ascoltati con New Drag Queens. Poi Hot Gossip, ovvero sia Giulio Calvino, che ha sciolto i Candies, ha formato questa nuova band per cui ci siamo ascoltati il brano La Mort. Giulio Caperdoni, che vi ricorda l'esistenza del podcasting, fra l'altro ce l'ha ricordata anche la lettura della lettera proveniente dal Texas di qualche minuto fa. Vi ricorda anche i biglietti per Milano e Torino di Isobel Campbell. Basta scrivere a giulio@radiorockfm.com, come scrivere a giulio@radiorockfm.com è anche il modo che voi avete a disposizione per iscrivervi a quella che è la lista nera di Eclettica, riservata veramente a pochi. When You Wasn't Famous, questo è il brano nuovo da parte di Mike Skinner, ovvero sia The Streets. See, the thing that's got it off up now is camera phones. How the hell am I supposed to be able to do a line in front of complete strangers when I know they've all got cameras? When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a bit spoiled. But when you try to pull a girl is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. The celebrity pages in papers don't tell tales that are always to the line of the truth. It's to the line at which it's most likely you'll have the time or enough finance to sue. Which is why it's so frightening buying papers in the morning, fearing the next might skin a scoop. Cause I used to believe what I read, so now I know that others will believe that it's true. But I realise with you the truth can be a whole lot worse than the flack. My whole life I never thought I'd see a pop star smile. And I must admit I was quite shocked with that thing you did with me on my back. But outside in the lobby I shouldn't have laughed when you slapped that man. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a bit spoiled. But when you try to pull a girl is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. You were so much fun, I really got to like you more than you like me. I really hope that you'd stay. Considering the amount of prang you'd done, you looked amazing on CD UK. You learned dances, do promo, cameras flashing, get in the van and zoom away. I wake up, I diss my beat, feel hungover and sorry for my doomy day. But I know I got a bit close to you, and that you found it super boring. You taught me so much about how to deal with the fire I'd fallen in, and what version of a rumour would next day be everyone's story of me. You taught me all the realities and turned the page and ignore them. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a bit spoiled. But when you try to pull a girl is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. Anyway, I had to rest my beer hat, delete my dealer's number and unroll my banknotes. And we were on borrowed time anyway, what with the daily toilet papers not knowing. And I knew that when the people who thought they knew you, when they found out, I would have been mocked. Which is ironic, cause in reality, standing next to you, I look up soft. Whenever I see you on MTV, I can't stop my big white smile. And past the children's appeal, I see the darkness behind. We both know the scratches on my back much better than their eludes and lies. I miss the bitching and shouting, but I'm glad I got out in time. When you're a famous boy, it gets really easy to get girls. It's all so easy, you get a bit spoiled. But when you try to pull a girl who is also famous too, it feels just like when you wasn't famous. You can't keep cuffing pop stars, you've got a fucking business to run. They're industry repercussions, Michael. I know. Sono nato due volte. Bambina, la prima. Un giorno di gennaio del 1960 in una Detroit straordinariamente priva di smog. E maschio adolescente, la seconda, nell'agosto del 1974 al pronto soccorso di Petoskey, nel Michigan. Non è impossibile che un lettore specializzato abbia letto notizie sul mio conto nello studio del dottor Peter Luce. Gender Identity in 5 Alpha Reductase Pseudo Hermaphrodites, pubblicato nel 1975 dal Journal of Pediatric Endocrinology. Oppure potreste aver visto la mia fotografia pubblicata nel capitolo 16 di Genetics and Heredity, un testo ormai tristemente obsoleto. Sono io, la ragazza nuda in piedi accanto ad un'asta graduata per misurare l'altezza a pagina 578, gli occhi nascosti da una striscia nera. Questo era l'incipit di Middlesex di Jeffrey Eugenides. Coming, I'm still running. Well, I come from the just a slave to sound. The debt's coming, I'm still running. Well, I come from the old town, baby, where all the kids are crazy. If I remain, then I'm to blame. But if you should ever need me, I'll go where you lead me. It's all the same. The Two Gallants, il duo di San Francisco, che da veramente molti mesi ci stiamo ascoltando qua all'interno di Eclettica. Torneranno, fra l'altro, ve lo anticipo, in Italia anche nel mese di maggio, e ovviamente avremo qua in Eclettica i biglietti da mettere in palio. Giulio at RadioRockFM.com, quasi alla chiusura di questa 27esima settimana di Eclettica. Ricordo ancora una volta che la prossima Eclettica non ci sarà. Vi lascio ora con il nuovo degli Elysian Fields. Sono statunitensi, ma hanno da sempre, dagli inizi della loro carriera, che risale all'inizio degli anni 90, un forte legame con la Francia. Questa è Set the Grass on Fire. I'm gonna tell your fortune, I'm gonna raise the dead. On fire as our rocket ship shoots to the sky. Leave the humans far behind us. Humans never learn to fly. I see you've quite a lifeline. I'll try it on for size. I'm gonna build a pipeline directly through your eyes. You ain't gonna get off easy or slip through space and time. 'Cause you're the only one that sees me. I'm yours and you are mine. And we'll set the grass on fire as our rocket ship shoots to the sky. Leave the humans far behind. We'll be right back. need. Qui, care eclettiche e cari eclettici, dichiaro ufficialmente chiusa questa 27esima settimana di Eclettica, come anche chiuso il tema. Avete sentito, ho letto io le parole arrivate da una fra voi legate a un concerto di De Gregori. Direi che il tema del peggior concerto della vostra vita non ha suscitato grande reazione. Ok, ho sbagliato io. Pensavo di cogliere nel segno, ma ho sbagliato. Cercherò altri temi. Mi avete risposto, sì, anche altri, ma con cose veramente molto stringate. Tipo, non ricordo se era il dicembre 84 o 85, vennero a Milano i Toc Toc, ci accompagnò la zia di un mio amico di scuola, aveva due poppe enormi. Si chiude qua. Alla prossima.